creazione e Trinità. Per questo, grazie alla rivelazione neotestamentaria, nella creazione si possono trovare segni della vita intima di Dio, cioè di quella dinamica d'amore che è la vita intratrinitaria. Il mondo deve riflettere il mistero dell'eterno rapporto di amore del Padre e del Figlio, senso di tutto ciò che è. Tommaso è particolarmente ardito in questo ambito ed afferma che come il flusso dell'acqua deriva dal fiume, così la processione temporale delle creature deriva a partire dall'eterna processione delle persone. E le processioni delle persone sono in certo modo causa e ragione della creazione. Summa, questione 45, A7, AD3. Giovanni Paolo II segue questo stesso cammino. Alla luce di questi testi apostolici possiamo affermare che la creazione del mondo trova il suo modello nell'eterna generazione del Verbo, del Figlio, della stessa sostanza del Padre, e la sua sorgente nell'amore che è lo Spirito Santo. E questo amore persona, consostanziale al Padre e al Figlio, insieme col Padre e col Figlio, sorgente della creazione del mondo dal nulla, cioè del dono dell'esistenza a ogni essere. 12 marzo 1986. Questo atteggiamento è alla base anche dell'analogia psicologica della Trinità. Quando conosciamo qualcosa fuori di noi, ce ne formiamo un concetto nella nostra mente con il quale poi possiamo pensare e comunicare. Lo stesso si dà per la conoscenza di sé. Ci formiamo un concetto di noi stessi, una autoparola, e le nostre azioni dipenderanno poi da questa immagine che abbiamo di noi stessi, così come le nostre relazioni con gli altri. Ma solo Dio ha la vera immagine di noi, il vero concetto, in quanto è il nostro creatore. Per questo il nostro vero nome lo conosceremo solo alla fine della vita terrena, nell'incontro con Lui, ricevendo la pietruzza bianca di cui parla l'Apocalisse. Apocalisse 2,17. Dio, invece, ha un perfetto concetto di sé, un'immagine perfetta di ciò che Egli è, cioè il Verbo, la seconda persona della Trinità. Si tratta di una persona distinta che è così unita al Padre nell'amore trinitario, così intima a Lui da essere la sua stessa sostanza, da essere un unico Dio e un unico cuore con Lui. Analogamente, il concetto di sé a livello umano è dentro di noi e in qualche modo è noi. Così nella conoscenza sorge anche l'amore di sé, non l'amore disordinato dell'egoismo dovuto al peccato originale, ma l'amore naturale. Tutto ciò che facciamo dipende dal confronto tra l'immagine che noi abbiamo di noi stessi e quello che realizziamo. Per agire dobbiamo sempre mettere in relazione l'immagine del bene e il concetto che abbiamo di noi stessi con le scelte da compiere. Se tutti ci vedessimo come Dio ci vede, se tutti ci conoscessimo nella relazione con il Creatore, non ci sarebbe il male. Il peccato originale, infatti, può essere visto come lo staccarsi dall'immagine e somiglianza divina, guardandosi da soli, a prescindere dalla relazione con Dio, con il Padre. Così, lo Spirito è l'amore con il quale Dio Padre ama il Figlio, generato come perfetta immagine di sé, come dono di se stesso da parte della prima persona che si conosce proprio in questo atto perfetto ed eterno. E il Figlio ricambia perfettamente il Padre, amandolo con tutto se stesso e conoscendosi in Lui, del quale è immagine perfetta. La prima persona si conosce e si ama nella seconda, la quale è frutto proprio della sua conoscenza e del suo amore. Volontà e conoscenza sono così intimamente unite e si richiamano vicendevolmente in un eterno dialogo che distingue e unisce il Padre e il Figlio. Quindi in Dio si trovano conoscenza e amore. Esse si identificano con Dio stesso in quanto immanenti a Lui, implicando una molteplicità che non significa però separazione. Il pensiero Logos e l'amore sono altri rispetto al Padre, ma non sono altro, perché sono una cosa sola con Lui. Chiaramente non si tratta di una prova logica, di una deduzione della Trinità, che può essere conosciuta solo grazie alla rivelazione. Il ragionamento è solo a posteriori ed è fondato proprio sulla creazione dell'uomo ad immagine e somiglianza di Dio uno e trino, grazie alla quale anche nella creatura personale si danno conoscenza e amore di sé. Questa vita intradivina, infatti, questa dinamica d'amore, è la fonte di tutto ciò che Dio fa. Dio Padre crea concependo la creazione nel suo Verbo, crea con la sua parola, appunto, pensando nel suo Logos, e ama la creazione stessa con l'amore che riversa sul Figlio, cioè l'ama nello Spirito Santo. L'universo sorge dal rapporto d'amore del Padre e del Figlio come dono dell'uno all'altro, perfettamente ridonato da questi al Padre. E l'uomo, in particolare, è creato in modo tale da essere conforme all'immagine che è il Figlio stesso, così che l'opera creata sia amata nel suo amore per il Figlio. Il mistero della Trinità consiste nel fatto che il Padre è se stesso nell'amore per l'altro, per il Figlio, il quale riceve tutto da Lui e tutto restituisce a Lui nello Spirito, che è dono amore del Padre al Figlio. L'amore a sé e all'altro non solo non sono opposti in Dio, ma si identificano in modo assoluto. Così tale dono amore costituisce il Figlio come Figlio, il quale è immagine del Padre proprio nel ridonare il dono amore al Padre, chiudendo il circolo dell'amore eterno. Questa è la vita eterna, questo è il paradiso, il cielo. E a questo mistero è chiamato l'uomo, e tutto il cosmo attraverso di lui, creato ad immagine e somiglianza, e in quanto tale dotato di intelletto e volontà. Dunque l'uomo è e diventa figlio, ricevendo la creazione dal Padre e restituendola a lui. Vale la pena di citare un testo di Giovanni Paolo II, forse un po' esteso, ma che dopo quanto detto può essere gustato in tutta la sua profondità. Si può dunque affermare che la rivelazione presenta dell'universo una struttura logica da logos, verbo, e una struttura iconica da eikon, immagine, immagine del Padre. Fin dai tempi dei padri della Chiesa si è consolidato infatti l'insegnamento secondo cui il creato porta in sé le vestigia della Trinità, vestigia Trinitatis. Esso è opera del Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Nella creazione si rivela la sapienza di Dio. In essa l'accennata duplice struttura logico-iconica delle creature è intimamente unita alla struttura del dono, come dicono alcuni teologi moderni. Le singole creature non sono soltanto parole del Verbo con cui il Creatore si manifesta alla nostra intelligenza, ma sono anche doni del dono. Esse portano in sé l'impronta dello Spirito Santo, Spirito Creatore. Non è forse detto già nei primi versetti della Genesi: «In principio Dio creò il cielo e la terra, l'universo, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque» Genesi 1:1-2. L'accenno suggestivo, anche se vago, all'azione dello Spirito in quel primo principio dell'universo appare molto significativo per noi che lo leggiamo alla luce della piena rivelazione neotestamentaria. La creazione è opera di Dio uno e trino. Il mondo creato nel Verbo Figlio viene restituito insieme con il Figlio al Padre mediante quel dono increato consostanziale ad entrambi che è lo Spirito Santo. In tal modo il mondo viene creato in quell'amore che è lo spirito del Padre e del Figlio. Questo universo, abbracciato dall'eterno amore, incomincia a esistere nell'istante scelto dalla Trinità come inizio del tempo. In tal modo la creazione del mondo è opera dell'amore. L'universo, dono creato, scaturisce dal dono increato, dall'amore reciproco del Padre e del Figlio, dalla Santissima Trinità. 5 marzo 1986. Il frutto ad extra dell'amore del Padre per il Figlio è la creazione. Quindi essa è totalmente sottomessa a Dio e trafitta dal suo amore, impregnata di esso, di quell'amore che è lo Spirito Santo che aleggiava sulle acque. Genesi 1:2. La presenza dello Spirito Santo sotto forma di colomba nel battesimo di Gesù presenta dunque la redenzione come nuova creazione. Marco 1:9-11, Matteo 3:13-17, Luca 3:21-22. Siamo quindi chiamati ad essere figli nel Figlio, che è inizio e fine di ogni cosa. Dio cerca con amore, cioè nello Spirito, il suo Figlio, cioè il Verbo, in tutta la creazione. Essere è per noi essere figli, e non c'è altra strada per essere. La fuga dalla creazione si rivela dunque fuga dalla filiazione. Ma questa fuga è necessariamente via verso il nulla, in quanto l'essere creaturale rimanda alla sua origine ultima che è il Padre, il quale può agire solo paternalmente. Tra l'amore e il nulla non c'è via di mezzo. Si comprende allora perché la domanda fondamentale che l'uomo deve rivolgersi è: perché l'amore e non il nulla? E si capisce cosa vuol dire il testo di Proverbi 8:31 poc'anzi citato, quando parla della delizia di Dio posta tra i figli dell'uomo. Si comprende perché il peccato, rifiuto della filiazione e della creazione, offende veramente Dio. Lui è offeso nell'offesa che il peccato è per noi, nel rifiuto dell'essere e della vita che esso implica. Ma Cristo si è incarnato per renderci ancora conformi a quell'immagine che è il fondamento del nostro essere e che era stata rovinata dal peccato. Il Figlio offre la sua vita al Padre perché si compia la volontà sua di vedere e amare il Figlio anche nella creazione. Per questo il Verbo si fa carne, il Creatore si fa creatura. La creazione è dunque voluta dal Padre perché il creato si conformi al Figlio. È a causa del Figlio, per mezzo del Figlio e in vista del Figlio. Questo desiderare di Dio è lo Spirito Santo, volontà, che forgia senza sosta l'immagine filiale. Alla fine dei tempi il Padre riceverà dalle mani del Figlio tutto il creato ricondotto all'immagine originaria, in un atto che svela la dimensione filiale di tutta la storia e della profondità della nostra vita. Ovviamente tutto ciò va inteso in senso analogico, in riferimento alla partecipazione cui si è accennato all'inizio del capitolo. L'intimità dell'unione tra il Creatore e la creatura è sempre frutto del dono e mantiene proprio per questo la distinzione relazionale, in modo tale che non si possa mai cadere nel panteismo.